Euroreportage. Europa, storie e opportunità di mobilità non ridotta, di Federico Taddia. Solo l'anno scorso per noi era impensabile che Luigi potesse andare in appartamento da solo, che Luigi potesse andare a Murcia a studiare, cioè era proprio, se ce l'avessero detto avremmo detto quando mai. Per me è come se avesse già 10 lauree. Ci provo. Non so se ci riesco. Buon lavoro. 26. There's no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart. 10 mesi a Murcia, in Spagna. È questa l'esperienza vissuta da Luigi Fantinelli, iscritto all'Università di Bologna e primo studente affetto dalla sindrome di Down ad aver fatto l'Erasmus. Una storia emblematica di formazione e integrazione, narrata anche nel film documentario Io ci provo, presa ad esempio per raccontarvi una mobilità non ridotta. Il programma Erasmus, infatti nato nel 1987, che fino ad oggi ha visto in Europa partire più di 3 milioni e mezzo di studenti, destina fondi a sostegno delle persone con esigenze speciali, come spiega Claudia Peritore, capo Unità Istruzione Superiore dell'Agenzia Erasmus+, Indire. Il programma Erasmus da sempre prevede la possibilità di un aiuto ulteriore in termini di contributo per gli studenti Erasmus che hanno però una disabilità e che comunque vogliono beneficiare di un periodo di mobilità all'estero. Quindi gli studenti partecipano innanzitutto al bando di selezione del proprio ateneo, del proprio istituto per partecipare alla mobilità Erasmus, che ricordo può essere sia per studio, quindi per trascorrere un periodo di studio presso un'università in un altro paese partecipante al programma, oppure per un'esperienza di tirocinio in un'impresa in un altro paese. Una volta che sono stati selezionati quali studenti Erasmus, possono presentare una richiesta ulteriore per ottenere una borsa aggiuntiva per coprire eventuali spese legate alla loro disabilità. In Europa, nel periodo 2012-2013, ultimo anno accademico censito, hanno ricevuto un contributo aggiuntivo per bisogni speciali 388 studenti, 339 in mobilità per studio e 49 in mobilità per tirocinio. Di loro, 51 erano italiani, numero che porta al secondo posto l'Italia dopo la Polonia. Per l'anno scolastico in corso, l'Agenzia Nazionale Erasmus+ ha stanziato una cifra di 150.000 euro. Ma cosa porta uno studente disabile a scegliere di vivere per qualche mese in una università straniera? Ecco l'opinione della dottoressa Peritore. Dalle storie che abbiamo raccolto in questi anni degli studenti che hanno partecipato, questa opportunità rappresenta un'apertura ulteriore dei propri orizzonti in tutti i sensi, perché sono studenti che non si nascondono davanti a nessuna sfida e che riescono a superare ricevono maggiori conferme probabilmente durante questo periodo di studio all'estero, riuscendo a superare tutte le sfide che gli si presentano e arricchendo il proprio bagaglio culturale, il bagaglio di amicizie, di rapporti interpersonali e accademico naturalmente. Superare una sfida e allargare il proprio bagaglio di conoscenze e di relazioni. Chissà se anche questi erano gli obiettivi che si era posta Martina Caironi, studentessa di mediazione linguistica alla Statale di Milano e medaglia d'oro nei 100 metri alle Paralimpiadi di Londra, che ha vissuto 9 mesi a Soria, piccola cittadina universitaria spagnola. Beh, il fatto è che io il mio desiderio di fare l'Erasmus era, diciamo, precedente a quando sono diventata disabile, quindi è stato un semplice andare avanti con la vita e fare quello che avrei voluto fare, e quindi sì, è chiaro, con una piccola cosa diversa, cioè il fatto che magari appunto con una protesi in una città come Soria, dove sono andata io, le salite, le innumerevoli salite e discese che c'erano erano leggermente più faticose, però come lo erano faticose per me, lo erano anche per tanti altri. E poi sì, appunto, mi sono anche rafforzata i muscoli delle gambe, perché bisognava camminare, non avevo lì la mia macchina, però appunto essendo sempre, come dire, con ragazzi che non hanno la tua disabilità, quello che mi è venuto da fare appunto è stato cercare di imitare anche lo stile di vita. Grinta e carattere non mancano di certo a Martina, sia in pista che sui banchi. Ma cosa significa essere una ragazza Erasmus con una disabilità? Quanto incide nella quotidianità? Beh, io andavo a ballare come tutti gli altri e anzi mi è capitato di spiegare poi alle persone in spagnolo che cos'era una protesi, quindi ho anche imparato poi tutti i termini per descriverlo. Semplicemente era una caratteristica in più che avevo e che portavo lì e che quindi diciamo arricchiva come persona. E ribadisco, era più che un problema, un elemento caratterizzante, ecco. Erano pochi anni che avevo avuto un incidente quando sono andata in Spagna e quindi sì, i primi anni tendevo a coprire la protesi, però essendo poi fuori di casa, lontana da tutte le persone che io avevo sentito vicina e che a cui era legato anche il mio ricordo di quando avevo le gambe, e con la Spagna e anche con la sua apertura mi ha aiutato molto in questo. E infatti sì, per la prima volta mi ricordo cioè, la felicità in quel momento in cui ho deciso di mettermi un vestito corto con le calze e far vedere a tutti la mia protesi, che poi alla fine non è che la guardassero così tanto, quindi ho capito che era semplicemente nella mia testa. My mama told me when I was young, we're all on superstars. La mobilità non ridotta va anche al di là dell'università. Il programma europeo Erasmus Plus, che promuove la mobilità nel campo dell'istruzione e della formazione, prevede la possibilità di svolgere periodi all'estero ed è in questa cornice che nasce Percorsi Europei di Crescita, un progetto di 24 mesi che vede coinvolti 12 stagisti italiani e francesi, grazie alla collaborazione tra l'ANFAS di Cagliari e l'UGECAM Normandia, come racconta Daniela Cadeo, assistente sociale e una delle coordinatrici dell'iniziativa. L'idea dei due partner era quella di far condividere a 12 giovani francesi e 12 giovani italiani un'esperienza sia di formazione che di lavoro e di vita indipendente, con l'obiettivo di promuovere un'idea della persona con disabilità come persona adulta, capace e anche produttiva. Quindi con questo progetto si è voluto far fare questa esperienza della durata di 15 giorni qui in Sardegna e verrà poi riproposta per 15 giorni in Normandia, con l'obiettivo proprio di far sperimentare quindi ai ragazzi dei contesti normalizzanti. In questo periodo, nello specifico dal 7 al 23 ottobre 2015, i giovani hanno condiviso un'esperienza di vita autonoma in un residence di Cagliari. La mattina i ragazzi con grande impegno si recavano a lavoro per lo svolgimento dello stage, al rientro erano impegnati nella preparazione dei pasti, la sera condividevano delle esperienze di tempo libero, così come anche la sera e la notte. I ragazzi hanno dimostrato una grande capacità di comunicare al di là di quelle che potevano essere le difficoltà linguistiche, quindi sia con i gesti, soprattutto utilizzando i gesti, si capivano, tant'è che hanno alcuni di loro scelto proprio anche di condividere nel mini appartamento insieme ad un collega francese e tra loro sono nate anche delle amicizie che stanno proseguendo e che poi continueranno nel momento in cui andremo a fare la stessa esperienza in Francia. Ma questa Europa, quindi, è davvero inclusiva? Il pensiero finale, un tentativo di dare una risposta, lo lasciamo a Maurizio Molinari, giornalista non vedente che dopo anni di lavoro a Bruxelles, oggi è addetto stampa del Parlamento Europeo per l'Italia. Secondo me o l'Europa include i disabili o l'Europa è inclusiva nei confronti dei disabili o non sarà un'Europa, perché non dimentichiamoci che tutti nella vita possiamo diventare disabili, con l'invecchiamento tutti rischiamo di avere una disabilità, quindi io non so se adesso l'Europa è un'Europa a misura di disabile. So che i disabili devono avere un posto in Europa necessariamente, perché se non hanno un posto i disabili in Europa vuol dire escludere, al momento sono 80 milioni di persone e saranno sempre di più, cioè vuol dire che facciamo un'Europa in cui escludiamo un europeo su 4, un europeo su 3, un europeo su 5? Non mi sembra abbia molto senso la cosa. Euro Reportage in collaborazione con Euronet Plus.